No. Du gut, du fährst ja bon. Andate e ritorno, sono quasi 9000 km. È un bellissimo posto, stanno facendo questo salone del mobile, non si capisce la bicchia, il cielo fa schifo. In vasca 1 abbiamo Antoniacci, in vasca 2 Pagliotta, campionato affettamento salami. L'affettato. Campionato affettamento salami, prima lì a nostro italiano, Fabretti. È una performance che ti chiede se ti ricordi un altro. La sera avevi registrato o no?